24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, sa? L'ha capita? Farò un master in bersanese. E allora buongiorno, 6:34 minuti, cari ascoltatori, siamo qua per una nuova puntata di 24 mattino in diretta fino alle 9. Oggi saltelliamo come pulcini, come passerotti o tacchini. Miriam Lucchetti in redazione, già attiva, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il consiglio del Presidente del Consiglio come mantra che ci stamperemo, ci attaccheremo davanti al vetro e leggeremo 10 volte al giorno. But please relax. Come sempre. Allora, il nostro bar condicio può aprire con i primi avventori. Il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Sì. Avete finito di rompere le palle con la Minetti. E la Minetti, sempre la Minetti. Non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare. E ci offre il caffè. Non sappiamo che fare. Saluto Carlo Rienzi. Buongiorno, presidente del Codacons. Buongiorno. Lei dà fastidio che la Minetti, lo chiedo a tutti, perché c'è una rivolta dei nostri ascoltatori, basta la Minetti, ma le dà fastidio che ce l'ho, offre il caffè, non davanti a un caffè offerto. Una bella donna che offre il caffè, perché non si dice mai. Allora, Carlo Rienzi, lei ci dice sempre che bisogna parlare di cose concrete. Allora voglio farla partire. Intanto però voglio salutare anche tra un attimo Vladimir Luxuria, che sarà con noi tra pochi secondi. Però, Carlo Rienzi, siccome si vuole parlare di cose concrete, eccetera, parliamo di una cosa che interessa a tutti gli italiani. Sa qual è? No, Fabrizio Corona. Questo è importante. C'è una trasmissione della Rai che si chiama Il Grande Capo Sticazzi, lo sapete, no? Sì, esatto. E questo è il commento editoriale di prima mattina di Carlo Rienzi. E Sticazzi, è vero, però no, la Rai è un po' fastidioso pure. Vabbè, mi faccia salutare Vladimir Luxuria, buongiorno e benvenuto, buongiorno Vladimir. Buongiorno. Eccoci qua. Dicevo, partiamo, Carlo Rienzi ci fa sempre il cazziatone a dire, parliamo di cose che interessano gli italiani. Fabrizio Corona, allora, sentite ieri Fabrizio Corona che oggi sbarcherà l'estradizione Lampo. Arriverà in Italia, sentite, ieri ha fatto anche uno spot, praticamente uno spot elettorale, un appello agli italiani. Una cosa sola, una cosa. Io non sono morto, ancora sono vivo, combatto e combatterò anche dal carcere per i miei diritti, perché sono una persona innocente e qualsiasi giornalista o conduttrice, come ho visto in questi giorni su internet, si permette di dire che sono un criminale, la querelò, perché io non sono un criminale, non ho commesso nessun reato. Pago 3 procedimenti per un'unica indagine che è Ballettopoli, da cui è venuta la bancarotta e la corruzione al pubblico ufficiale. Ho lavorato per 13 anni mantenendo 30 persone e non commettendo un solo reato. In questo momento che ci sono le elezioni, voi cittadini italiani pensate, combattete per i vostri diritti da uomo libero. Tutte le altre informazioni che vi darò quotidianamente vengono dal mio portale social channel, che è la mia libertà. Lo spot finale, voi italiani combattete, e voi italiani adesso che ci sono le elezioni, Vladimir Luxuria combatta. Ma io ho paura parlare perché non vorrei essere querelata, perché no. Bisogna stare attenti. Basta dire che non la pianto, il maschio alfa non piange. Intanto questa idea che la virilità si basa anche sul fatto che un uomo non piange, che lui, la cosa adesso di cui si deve vergognare è se ha pianto o meno, non lo so, un uomo è bello anche quando piange, può avere un momento di sfogo. Mi dispiace che siano chiuse le liste, perché altrimenti Corona si sarebbe potuto candidare. Poi avrebbe potuto fare come Cosentino e chiedere l'immunità parlamentare in aula. Candidare era un po' difficile cercarlo per mettere la firma all'ultimo momento, era un po' irreperibile. Poi Rienzi, tra un attimo parliamo anche di Monti Paschi. Però la chicca di Corona è stata questa, quando una giornalista portoghese lo avvicina, gli fa una domanda in portoghese, ovviamente, e lui risponde: non conosco il francese, mon amour. Ma va. Fabrizio, che hai chiesto al giudice? Devo ritornare alle 2, dopo le 2 posso parlare. Ok. Chissà, Schmisse. Ma non parlo francese, ma mon amour. Mon amour, eh. Deve essere carina. Che non so, non lo so, però non parlo francese, mon amour. Vabbè, allora, Monte Paschi Siena. Ci sono tante di quelle notizie sui giornali. Intanto oggi c'è Beppe Grillo all'Assemblea del Monte Paschi. Ha detto oggi vado a ridere, vado all'Assemblea del Monte Paschi Siena. Carlo Rienzi, dai, dica subito, il Codacons è pronto a fare qualcosa, mega cause? No, noi abbiamo fatto un esposto contro la Banca d'Italia per concorso nei reati commessi dal Monte dei Paschi, perché non possiamo pensare che gli italiani siano considerati così cretini da sentirsi dire dal governatore della Banca d'Italia, che ha come compito la Banca d'Italia, ha centinaia di ispettori bravissimi, sì, per vincere il concorso bisogna essere bravissimi, che vanno nelle banche, che gli hanno nascosto i documenti, cioè gli hanno fatti però non è che, non è che serie, cioè, fanno una vigilanza, ma non è che la Banca d'Italia sono dei poliziotti che possono fare. No, non è vero, possono mandare la Guardia di Finanza, possono mandare l'oro, possono chiedere qualsiasi cosa, possono aprire le casseforti, possono guardare qualsiasi documento. E poi dico, ma perché Profumo da un'anno a questa parte non si era accorto di niente? Cioè qui tutti adesso chiudono gli occhi, a parte i sindacati e i partiti che stavano lì dentro, ma che stanno in tutte le banche. Attenzione, ogni partito, io lo dico da anni, lo diciamo, ogni partito ha una banca di riferimento. Sì. Quindi non vogliamo sentirci prendere per i fondelli, scusatemi. Quindi quando sente dire qualcuno la banca, non abbiamo la banca, anche Bersani ieri ha ribadito, noi facciamo la politica, la banca è un'altra cosa. Non so, Vladimir Luxura la politica l'ha anche un po' vissuta dal di dentro. Questa storia, Vladimir, le banche e la politica, c'è questo... Ha mai sentito in Parlamento di questi intrecci tra affari, finanza, partiti? Sto pensando in questo momento all'abolizione del finanziamento pubblico, no? Cioè abbiamo già un finanziamento pubblico, voglio dire, che è già abbastanza generoso nei confronti dei partiti. Adesso l'idea di avere le banche amiche, le cose, insomma, è abbastanza preoccupante, soprattutto poi in questo periodo poi dove c'è la campagna elettorale. Ero molto d'accordo su quello che ho sentito prima. È un po' anche tutto molto strumentalizzato, al punto tale che ci sono dei partiti che anche dovrebbe, tipo la Lega Nord, sarebbe stato un gesto di buon gusto non andare a fare il presidio, non fare il presidio a Siena in questi giorni, perché insomma ci sono tanti partiti che insomma, con le banche, con la creazione di banche, insomma, con accordi, con le benciucci, con le banche, non hanno proprio la coscienza. D'altronde le banche ci sono i soldi. Tra l'altro le notizie oggi di Monte Paschi, poi le vedremo nella segna stampa, ma due ve le voglio subito dare. Caro Rienzi, nell'anno 2009, quello in cui sono stati fatti i contratti, quelli derivati Alexandria, Mussari ha preso 714.000 euro, scrive oggi il Sole 24 Ore, e Vigni, cioè il direttore generale, 2 milioni di euro, di cui 800.000 di bonus! Di bonus! Di bonus di che? Il bonus per avere raggiunto un obiettivo, immagino. Ma io ho letto pure che qui sul Corriere prestiti per 13 milioni. E questa è la seconda notizia. 13 milioni di euro, scrive il Corriere della Sera, a finanziare una serie di hotel, la cui proprietaria è una signora che è la moglie dell'ex presidente Mussari. 13 milioni di esposizione, 13 milioni di euro. Monte Paschi Siena erogava prestiti, per carità, quello dovrebbe fare la banca, anche no, Rienzi? Due aziende che teramano riconducibili a, e non lo dico perché lo dite voi, a chi? No, questo me la son perso. No, lo dica io. No. Giampiero Samurì. Ah, Samurì. Ah, quello che leggo, quello che io leggo e non mi assumo responsabilità. No, vabbè, io non sono arrivato alla fine dell'articolo. Eccolo qua, sì. È Giampiero Samurì, è vero. L'avvocato che avrebbe voluto partecipare alle primarie del PDL, che è candidato. Vabbè, però le banche dovrebbero fare quello, prestare soldi, no? Tra l'altro, Rienzi. Quindi che male c'è se prestano 13 milioni di euro? Se non ci fosse che chiudono 200 piccoli negozi, aziendine o altro al giorno perché le banche non tirano fuori un euro, sarebbe anche giusto. Infatti io allora l'ho detto. Direi questi qui vadano a chiederli adesso a Mussari, a Samurì. Ma io infatti sono tre giorni che io lo dico, andate in una qualsiasi filiale del Monte Paschi Siena, dite che vi manda l'amica Alexandria e chiedete un mutuo di un 5-10 mila euro e se non ve lo danno piantate anche un casino, se chiamate il direttore dite ma come Alexandria mi manda. ho bisogno di 5.000 euro, devo aprire un'attività. No, Vladimir, può farlo questo esperimento per noi? Dice, ci manda Alexandria, è una mia amica, voglio 5.000 euro. Mi pare una buona idea. Noi abbiamo una serie di aziende veramente che sono disperate perché non riescono a pagare anche le tasse. Con la Equitalia che gli manda le ingiunzioni, eccetera. Una, per esempio, a Tarquini adesso ha chiesto la realizzazione perché sennò deve chiudere. Adesso gli dirò di andare al Monte dei Paschi a chiedere un po' di soldi. Di soldi. Vediamo che intanto, Vladimir Luxuria. Penso anche a tante, è vero, di tante aziende, penso anche a tante giovani coppie che hanno tutte queste difficoltà ad ottenere un mutuo, semplicemente perché poi la banca pensa che non ci sono le garanzie adatte. Oppure tutti quelli che tentano di fare un'attività nuova. E appunto. Ecco, mentre tutti poi questi soldi erogati così, ci sono stati anche degli studi in cui si è visto che le banche hanno diminuito drasticamente i prestiti. E dicono che c'è il credit crunch, che non ci sono i soldi, i piccoli imprenditori che non riescono a portare avanti l'attività, magari devono prendere le commesse fatte con la pubblica amministrazione che non gli pagano e loro non hanno la liquidità, vanno a chiedere 10, 20, 30 mila euro. No, bisogna dare i bonus, bisogna dare i 13 milioni agli la Siena, ma tutto bene così. Il ricordiamo posto che gli azionisti che sono stati veramente come Parmalat, Alitalia, sono veramente gabbati, imbrogliati, derubati, possono costituirsi parte civile nel processo penale. E oggi c'è pure noi abbiamo organizzato uno staff, quindi non si paga praticamente niente, basta iscriversi all'associazione per fare questo, perché perlomeno si senta sulle spalle anche questo giudice che sono centinaia di migliaia, milioni le persone che sono state danneggiate da questi signori. Poi dopo oggi vedremo all'assemblea se Beppe Grillo dice rideremo. 24 mattino. Don Mondladar, fra tutte le grandi crisi che stiamo subendo, la peggiore è la perdita dei valori. E nessuno fa niente, boy d'un mondladar, assolute! Ma tutti i problemi che ci sono, ma proprio di Fabrizio Corona bisogna parlare, ma chi cazzo se ne frega di Fabrizio Corona? Siamo proprio un popolo di ignoranti. Allora Alessandro, tu non lo sai mica che alla regione Lazio hanno una cappella, una chiesetta, dove fanno la messa tre volte a settimana, circa 120 ore l'anno di messa retribuita, 120 ore l'anno, e poi tutte le commemorazioni del marito della dipendente, del defunto del dirigente, del defunto della nonna, hai capito? Eh? Lo sapevi? Senti signor Milan, io sono contadino e capisco poco, ma sti politici capiscono meno di me. L'altro giorno è venuto un capo dei comunisti del paese mio e mi ha detto che devo votare Bersano. Bersano, gli ho detto, quello che vuole mettere gli occhiali da sole agli girasoli? Ma siamo matti? La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappa lo campo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita, come ci toccava a noi quando erassimo bardacci, capito? Digli questo. Altro che fortuna, un bazooka per tutti quanti. Il sangue ce l'hanno già preso tutto nelle vene. Il cicin, ovvero la carne, ce l'hanno già mangiata. Adesso si stanno rosicchiando le nostre ossa. Ma è un coacervo straordinario di lingue, espressioni, di umori. La nostra segreteria telefonica, se volete 02 4652 4492, poi vi daremo bene il numero. Ma Carlo Rienzi, Vladimir Luxuria, ma quello della zappa, io ieri ridevo come un matto. La zappa di 7 chili bisognerebbe dargli a questa gente, la zappa. E poi cosa diceva, la cipolla e la minestra scunnita. Vabbè, d'altronde quando uno continua a leggere sul secolo XIX, oggi avremo ospite alle 8.15 alle 8.30 il governatore della Liguria Burlando. Sapete, Vladimir Luxuria, Carlo Rienzi, ancora la regione Liguria, la questione delle spese, così in maniera, come definirle Rienzi? Quelle... Un po' allegra. Allora, il consigliere regionale Saso, intervistato, Popolo della Libertà, sì è vero, ero alle terme, 5 ingressi in piscina, ma sai qual è il mio problema? Sono disordinato. e lo scontrino è finito per errore lì dentro e quindi sono un pasticcione, sono... Ma che ci faceva alle terme? Ah, avrò sicuramente incontrato qualcuno di istituzionale, non ero mica lì per piacere, no? Cinque. E poi i regali, era regali. C'è chi incolpa la collaboratrice che ha messo lo scontrino per del vasellame che è stato preso e poi soprattutto... Vladimir, hanno rimborsato 11 euro in bottoni. 11 euro in bottoni. Se uno sa famosa... consigliere regionale gli cadono i pantaloni, però non ho capito, pure voi siete strani. No, è la famosa stanza dei bottoni. È no? La famosa stanza dei bottoni. Qui devo evocare il solito Oscar Giannino. Basta! Basta! Basta! Questo è Vladimir, ma io lo dico a tutti, lo dirò a tutti, cosa devono fare i cittadini di fronte a queste cose? Che strumenti abbiamo se non quello di andare a votare, scegliere, ma chi? Vladimir, ma chi? Bisognerebbe intanto che si abbia un po' di memoria, perché poi dopo si tende anche spesso a dimenticare, cioè ci sono le magane, poi dopo un mese c'è uno nuovo che ruba più dell'altro e si dimentica chi ha rubato prima. Io veramente in questo momento mi sento di una trasgressiva perché insomma no, non sono stata mai imputata di nessuna spesa strana, ma io mi vergognerei, ma come si fa a pensare di farsi rimborsare poi dal popolo delle spese che non c'entrano niente con la tua attività parlamentare, c'è anche con la tua c'è, attività di consigliere regionale. C'è anche il cibo per il gatto. Sai che tra l'altro non è gente, voglio dire, che non ha soldi. Insomma, già ci sono dei buoni stipendi. E come no? Diventa innanzitutto avidità e poi anche stronzaggine, sinceramente. Perché l'idea di pensare che c'è qualcuno che fa fatica ad arrivare a fine del mese e che contribuisce al finanziamento pubblico della tua attività e tu che o te ne vai alle terme o che ti compri i bottoni devi gravare su queste persone è moralmente vergognoso. Sì, tra l'altro si è scatenata la ricerca al paio di mutandine femminili che sono state rimborsate e tutto porta pare alla capogruppo d'Italia dei Valori Maruska Piredda, ex hostess di Alitalia Pasdaran delle battaglie sindacali, che dice no, smentisco categoricamente, perlomeno abbiamo saputo che le porta le sì, infatti, io non la volevo fare la battuta, cioè dice no, smentisco categoricamente, non ha aggiunto perché non le porto no però guardate, attenzione perché qui si continua a dire quella compra le mutande, quella compra lo champagne eccetera, ma la responsabilità sta nei partiti che hanno deliberato leggi regionali e provvedimenti come le delibere del Consiglio di Presidenza della Regione Lazio, a cui hanno partecipato tutti i partiti, tutti. Per dare milioni di euro ai consiglieri, ai gruppi consiglieri, perché poi certo. Il consigliere quando se l'è messo in tasca, siccome sono quello che sono, ci fanno quello che vogliono pure le schifezze. Beh, ma è chiaro, però, la responsabilità politica è chiara, è sempre a monte. No, voglio dire, non è che possiamo andare a cercare quella che ha comprato le mutande. No, ma punirlo. È giusto, è il dobbiamo sistema. Dire che sono tutti delinquenti. Ma io lo dico sempre, il sistema bisognerebbe, per togliere il problema, mettere a zero i rimborsi ai consigli, 0 euro. Così uno, le mutandine, obbligato a tirare fuori le soldi dal portafogli. Ma voglio, nel salutarvi, farvi sentire ieri da Barbara Palombelli un Berlusconi sull'Obama abbronzato. È tornato. Su Obama abbronzato. Le cene eleganti, il cucù alla Merkel, definire Obama abbronzato. Non è che lei delle volte si gioca tutto per delle debolezze private? Ma non c'è nessuna debolezza privata. Abbronzato è un complimento. Io avrei voluto avere il suo colore che fa salute. Fa salute! Ha sentito Vladimir. Fa salute il colore di Obama. Devo fermarmi qui che forse è meglio. Fa salute. Vi ringrazio Vladimir Luxuria e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Ci ritroviamo dopo il GR delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:22 minuti, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi ci concentreremo sulla regione Liguria, le spese dei consiglieri che destano ancora scalpore e vi spingono a tenere le mani ben salde sul volante, come sempre. Avremo ospite, tra l'altro, alle 8:30 anche il governatore della regione Liguria, Claudio Burlando. E prima però, appunto, andiamo a vedere cosa ci offrono i quotidiani in edicola. Questo venerdì 25 gennaio, mi sono spento il microfono da solo, la colpa è mia, venerdì 25 gennaio. Allora, intanto i titoli sono tutti declinati sul Monte Paschi Siena. Monte Paschi Siena, resa dei conti in assemblea, così il titolo del Sole 24 Ore in apertura. Per il Corriere della Sera, caso derivati, tensione su Banca Italia, Repubblica, Monte Paschi, scontro sui controlli, La Stampa, Monte Paschi, Monti contrattacca. Il Fatto Quotidiano, la bomba Montepaschi scoppia su Monti e il PD. Il Giornale, banca rossa fraudolenta, e finanza senza vergogna. Il Messaggero, Montepaschi battaglia in Parlamento. Il Secolo, Montepaschi, il governo attacca Banca Italia. Libero, sotto la banca, il PD crepa. E come vedete i titoli sono quasi tutto su questo. L'Unità invece su salvare l'Italia con il lavoro. Oggi a Roma l'ha annunciato piano per rilanciare il lavoro della CGIL. Mentre Avvenire, coerenza fino in fondo, il segretario di Stato Vaticano Bertone e il presidente Acei Bagnasco, queste sono le dichiarazioni. Il Manifesto invece, banda armata, la vicenda che ha portato estremisti di destra, una delle quali anche candidata al Parlamento, arrestati ieri, neofascisti a Napoli, scrive il Manifesto. Ma come non iniziare oggi dalla puntata Ter sul Secolo XIX, sulle spese dei consiglieri regionali della Liguria, quelli per i quali la procura accusa di peculato, cioè soldi vostri, spese loro. E oggi ci sono delle cose spassosissime, quelle cose che appunto dovete stare aggrappati al volante, tenere le tazzine del caffè della spremuta ben salde. Qualcuno mi ha scritto: in treno che si fa? Mettetevi con le ginocchia, tipo atterraggio d'emergenza in aereo, prendetevi le ginocchia e state fermi, non prendetevela col controllore. Cravatte, gioielli erano regali di Natale. Pagina 18 del Secolo XIX, ecco la difesa nell'articolo di Vincenzo Galliano e Marco Grasso dei vari consiglieri. Regali, fulare, cravatte, regali, lo shopping alla galleria d'arte, regali. D'altronde eravamo sotto Natale, così Luigi Morgillo, capogruppo del Popolo della Libertà alla Regione Liguria. C'erano anche 11 euro di bottoni rimborsati, 11 euro di bottoni. Quello è stato l'errore di una collaboratrice, un'ingenuità, se me lo chiedeva tiravo fuori i soldi io. E comunque lo stesso Morgillo dice: sono incazzato nero, forse per le spese, forse per il clamore. Anche Nicolò Scialfa, vicepresidente della regione, che tra l'altro in un'intervista si è preso due scappellotti mentre faceva un'intervista in TV, uno è arrivato un cittadino e gli ha dato due sberloni sulla nuca mentre parlava, questo è il clima che c'è, ma si è sempre fatto i regali, ciò che un tempo era opportuno e legale forse oggi è inopportuno. In realtà, scrive il Secolo, la procura ci vede poco di opportuno e di legale in quello che sono delle spese, magari anche per cifre modeste. Sentite anche Sergio Scibiglia, Partito Democratico, per alcune pizzate al limone Piemonte. Sì, ero lì, la cosa ha fatto rumore, ma ero per un incontro con il sindaco, dovevamo discutere per il collegamento ferroviario, di certo non ero in vacanza. E poi c'è l'indiscrezione sulla caccia alle mutandine intimo femminili che sono state rimborsate. Tutto porta, dice il Secolo, a Marusca Piredda, capogruppo dell'Italia dei Valori, che però smentisce categoricamente la proprietà dell'indumento. Ci sono anche degli aspetti molto molto di colore. E c'è l'intervista poi a pagina 19 al consigliere Saso, Alessio Saso, Popolo della Libertà, che ha fatto 5 ingressi alla piscina alle Terme di Vinadio. Ero io alle terme, ma quello scontrino è finito lì per errore. Sapete qual è il mio problema, dice Saso, intervistato da Alessandra Costante e Matteo Indice. Sono disordinato e lo ammetto, sono proprio io quello che è andato alle terme di Vinadio, pagando con soldi pubblici del gruppo consigliare. Ma lo scontrino deve essere finito per sbaglio nelle pezze giustificative dei rimborsi. E ora cosa vogliamo fare? Sparare su un uomo già morto? Dice Saso. Eccolo qua, Grand Hotel Nuove Terme di Acqui. Alt, capisco, sullo scontrino ha inserito una generica formula ingresso accanto al prezzo complessivo per 5 persone, ma premesso che si tratta di un episodio abbastanza datato, non mi ricordo proprio d'essere stato in un bagno termale. A pranzo sì, in quello stabilimento, ma non alle terme. E poi c'è da mettere in chiaro, io consegno gli scontrini, ricevute, fatture, documenti alle segretarie e tutto è fatto apposta. Evidentemente quello è entrato per sbaglio, mannaggia, quello, lo scontrino che è saltato fuori e proprio è finito in mezzo a tutti quelli da rimborsare. E comunque dice, ma chi doveva fare alle terme? Ah, ho sicuramente incontrato delle persone. Non direi che si trattasse di una visita di piacere. Sì, ma chi ha incontrato? Questo non lo ricordo. Non ricordo chi fossero. Ha incontrato delle persone istituzionali, quindi era lì come consigliere regionale alle terme, ma se mi chiedete proprio chi erano queste persone, non lo ricordo, ma sicuramente il motivo era istituzionale. Va bene, tenete sempre le mani forte sul volante, perché oggi se leggerete l'Espresso, e ripreso anche dal giornale, scoprirete che l'Espresso rivela che sono stati spesi ultimamente 400.000 euro per ampliare e aumentare la sicurezza della villa a Roma del guardasigilli, cioè il ministro della giustizia Paola Severino. Misure di sicurezza a carico dello Stato, così pochi mesi fa si è provveduto a blindare la villa sull'Appia Antica del ministro della giustizia Severino. Beh, certo, il ministro della giustizia è uno dei ruoli chiave, più importanti, anche più sensibili del governo. In ogni caso, un nuovo impianto di videosorveglianza, 150.000 euro, in totale una spesa sui 400.000 euro, nonostante manchino tra l'altro una manciata di mesi alla fine, mancassero una manciata di mesi alla fine del governo. Comunque, Monti ci fa pagare anche il conto di casa Severino, questa è la polemica sui costi che è ripresa anche dal giornale, la trovate a pagina 12. Rilassatevi adesso un attimo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo col Monte Paschi Siena, anche lì ci sono delle notizie che vi faranno, come dire, affrontare il weekend sereni. Il mio nome è Alessandro Ragno, portiere, capitano della squadra di calcetto. Sulla maglia è il numero 1. Impedirò alla capolista di violare la mia rete e di rovinarmi le domeniche gratis. Ogni giorno un milione di persone sale in auto e si sente fiero. Ha scelto Directline, l'assicurazione che ai nuovi clienti, con la garanzia infortuni del conducente, offre tutte le domeniche gratis. Fai un preventivo su directline.it e scopri i dettagli dell'offerta. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. A tutti gli ascoltatori, stiamo cercando un veicolo commerciale. È stato avvistato ieri a Milano, ma prima era stato a Napoli, a Londra, in Turchia, Russia, Germania. Se non vuoi trovarti in questa situazione, scegli Visiran e sai sempre in tempo reale dove sono e cosa fanno i tuoi mezzi. Controlli i consumi di carburante e comunichi con i tuoi autisti in tutto il mondo. Provalo subito gratis sul sito visiran.it. Visiran, se non vedi non sai, se non provi non capisci. Cosa dice il marziano? Dice che ha bruciori di stomaco. Dagli due compresse di digestivo Antonetto. Buone quelle al limone, le ho viste in farmacia. Cosa? Dice che sono buone anche quelle al limone, le ha viste in farmacia. Se talvolta soffrite di bruciori di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il digestivo Antonetto. Le compresse di digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Il digestivo Antonetto agisce presto. Visitiamo la città dei medici. Perché? Ti senti male? Parti alla scoperta di Firenze e delle altre città italiane. Acquista o ricarica una Lottomaticard, la carta prepagata per i tuoi acquisti sicuri che trovi nelle tabaccherie Liscard di Lottomatica Servizi e ricevi un buono sconto fino a 30 euro per viaggiare con le frecce di Trenitalia. Regolamento su lispremia.it. Offerta soggetta a restrizioni. Operazione a premi valida fino al 3 marzo 2013. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consultare le condizioni economiche e contrattuali su lottomaticard.it. Здравствуйте, можно меню, пожалуйста? Cosa? Ciao! La barista non sa il russo? Se i turisti sono russi, bisogna impararlo. Funter finanzia formazione su misura per le piccole e medie imprese, senza un euro in più. Chi si forma non si ferma.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. In queste ore l'inverno sta nuovamente alzando i toni, perché il vortice di bassa pressione che insiste sulle nostre regioni meridionali porterà delle correnti di aria gelida di origine artica sulla nostra penisola e quindi farà freddo, decisamente freddo, sia oggi che nei prossimi giorni, anche se in realtà il tempo è in fase di miglioramento. Quindi oggi prevalenza di tempo bello al nord e nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello in Toscana e Lazio. E poi piogge sparse su regioni centrali adriatiche, quasi tutto il sud della Sardegna, con nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico dell'Appennino centrale, oltre 600-800 metri sui rilievi del sud, e le temperature caleranno un po' dappertutto. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto. A volte l'importante non è partecipare, è far correre più veloce il tuo business. Questa è Fibra. Mega internet e telefono fisso a 29 euro al mese per negozio e partita IVA senza costi di attivazione. Fastweb, immagina, puoi. Info su fastweb.it, 192192 e punti vendita. Ancora non sapevi che All Inclusive Unlimited di Wind è anche per i professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese? Scegli Wind anche per il tuo lavoro. Hai chiamate, messaggi illimitati verso tutti e internet senza limiti di tempo a soli 35 euro al mese per 5 anni. Vai nei negozi Wind. All Inclusive Business. Offerta in abbonamento. Info su windbusiness.it. Interrompiamo i vostri programmi per fare una dichiarazione ai professionisti, ma anche la contabilità, i bilanci, le paghe, la gestione dello studio, l'archiviazione documentale, anche in cloud. Stop! Rifacciamo! Hai dimenticato la conservazione sostitutiva e il portale collaborativo di studio. E come si fa in 30 secondi? Wolterskluwer Italia le fa tutte le soluzioni software per commercialisti e consulenti del lavoro. E ricordati di dire che sono firmate OSRA e IPSOA. Wolterskluwer Italia. Quando si è primi, i secondi non bastano mai. software.whi.it. In banca? Sì, certo. La mia nuova auto la prendo in una filiale del gruppo Carige. E anche il salotto, il televisore, il computer e pure un weekend. Non aspettare! Entra in banca! Misura il finanziamento progettato apposta per te da Creditis per facilitare i tuoi acquisti in tutte le filiali del gruppo Carige. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso filiali banche gruppo Carige. Salvo approvazione di Creditis S.p.A. Info 800-010909 o creditis.it. Uno monocromatico, uno a colori, uno per digitalizzare i documenti, uno per il workflow aziendale. Signorina, dai numeri? No, direttore, sto scegliendo tra gli 11 modelli della nuova gamma di multifunzione Kyocera. Task Alpha 3050C e Task Alpha 4500i. 11? E quanto mi costano? Non li deve prendere tutti. Ce n'è uno per ogni esigenza. Sono affidabili, ecologici e con il timer settimanale. Ma allora Kyocera conviene. Ci può contare. Kyocera, count on us. Trovi i rivenditori Kyocera su kyocera-document-solutions.it. Kyocera Document Solutions Corporation. 24 mattino. E allora, 7:34 minuti, la notizia del giorno certamente sono gli sviluppi di Monte Paschi Siena. Oggi alle 9 Simone Spezia se ne occuperà in 9 in punto. Tra l'altro, oggi c'è l'assemblea, parteciperà anche Beppe Grillo, che da azionista dice si riderà oggi, andrò all'assemblea del Monte Paschi. Monte Paschi Siena, oggi le due notizie più interessanti le trovate, una sul Sole 24 Ore e una sul Corriere della Sera. Moria Longo sul Sole 24 Ore: quando Monte Paschi speculava sull'Italia, attenzione, è comparsa una nuova operazione finanziaria insieme a Santorini ed Alexandria, si chiama Nota Italia, come scrive Moria Longo in realtà una nota stonata, è una complessa operazione finanziaria realizzata nel 2006 a Monte Paschi con JP Morgan, che puntava a procurare guadagni alla banca senese vendendo, questo in maniera sintetica, credit default swap trentennali sull'Italia. Cioè, in concreto, i CDS, i Credit Default Swap, sono strumenti derivati che servono per assicurarsi contro il rischio di fallimento di qualunque azienda o Stato. In questo caso della Repubblica Italiana. Venderli, dunque, significa vendere una polizza che produrrebbe un risarcimento a chi la compra nel caso in cui l'Italia dovesse fallire. Quindi, quando Monte Paschi speculava sull'Italia. E c'è tutta la storia di questa Nota Italia, definita nota stonata. Volete, sempre sul Sole 24 Ore, una notizia che vi farà passare il weekend allegri, come ho detto? La buona uscita a Vigni, direttore generale nell'anno della stipula di Alexandria, uno dei derivati che ora sono nell'occhio del ciclone, quanto ha preso il direttore generale di allora, Antonio Vigni? 1.952.000 euro, dei quali 800.000 di bonus, cioè di premio aziendale di rendimento. Questo nell'anno in cui è stato stipulato il contratto segreto in derivati Alexandria con Nomura. 800.000 euro di bonus per rendimento, premio aziendale. In quell'anno Giuseppe Mussari, l'ex presidente di Montepaschi, ha preso 714.500 euro. La seconda notizia interessante che ho letto sul Corriere della Sera, Mario Gerevini la pubblica a pagina 2, quei prestiti per 13 milioni di euro alla moglie di Mussari, cioè l'ex presidente del Montepaschi. Possibile che nel portafoglio crediti di una controllata di Banca Montepaschi ci siano impegno 40 società delle energie rinnovabili, in parte scatole vuote o di proprietà ignota? Oppure, nella categoria piccole e medie imprese, un ottimo cliente è l'Hotel Garden, 4 stelle vicino al centro di Siena, realizzato sulla ristrutturazione di una villa del 18° piano. L'Hotel Italia, invece, è un 3 stelle che appartiene, così come il complesso agrituristico di Villa Agostoli, 10 villette e appartamenti a 5 km dal centro. L'imprenditrice che controlla il gruppo turistico immobiliare si chiama Luisa Stasi. Altri non è che la moglie dell'ex presidente di Montepaschi, Mussari, e l'esposizione presso il Montepaschi è di 13 milioni di euro. Per carità, scrive anche il Corriere, è giusto, la banca è lì per prestare soldi, tra le altre cose. Poi magari si potrà dire, già li sento i tanti artigiani, piccoli imprenditori, famiglie che sono in questo momento all'ascolto, che dicono: ma come, noi siamo andati a chiedere un mutuo di 10, 20, 30 mila euro, la banca mi ha detto che non ci sono questi soldi. Ci sono, magari non per tutti, ma ci sono. 13 milioni di euro c'erano per la moglie dell'ex presidente Mussari, per le sue aziende. Ma scrive anche Mario Gerevini: tra i tanti che hanno ottenuto prestiti anche una società principale azionista, la Sopaf della famiglia Magnoni, e anche due aziende del Teramano riconducibili a Giampiero Samori, che è candidato per MIR, questo partito MIR, avvocato modenese che avrebbe voluto partecipare alle primarie ed è candidato nel centrodestra con i moderati. Allora, in questo contesto, come dire, Montepaschi ieri ha messo una nota molto dura a dire la situazione è sotto controllo, cioè c'è anche da parte dell'attuale dirigenza molta preoccupazione sia per il crollo in borsa sia anche per le notizie, tanto che, appunto, scrive Cesare Peruzzi sul Sole a pagina 5, l'attuale dirigenza ha scritto in una nota, si è detta, si capisce che è anche indispettita dal clima che si è creato attorno alla situazione. Napolitano ha detto fiducia in Banca Italia, e certo il fronte Banca Italia è un altro fronte. Il Corriere della Sera, con Stefania Tamburello a pagina 3, racconta come il governatore Visco abbia detto hanno mentito più volte. In realtà il Corriere della Sera stesso pubblica sotto un articolo di Milena Gabanelli e Paolo Mondani, nel quale si dice: attenzione, però ci sono dei documenti di un'ispezione del 2010 leggendo i quali si capisce già che qualcosa non andava. Gli ispettori, e sono Vincenzo Cantarella, Biagio De Varti, Giordano Di Veglia, Angelo Rivieccio, Federico Pierobono, Omar Karam, che hanno firmato quella relazione per Banca Italia, notarono per esempio che la regolamentazione delle operazioni finanziarie deve essere estesa ai veicoli di diritto estero al fine di evitare che possano essere assunte posizioni non monitorabili dalle strutture di controllo, ovvero, tradotto, siccome ci sono più centri decisionale in grado di assumere rischi, è opportuno che la capogruppo sia in grado di conoscere i rischi che tutti gli altri centri si assumono. E ancora, la relazione di Banca Italia del 2010, l'azione dei comitati interni è incerta, poco incisiva l'operato del comitato rischi, le decisioni prese nei comitati finanza e di stress non vengono riportate con regolarità in consiglio, cioè ognuno assume rischi come gli pare e il consiglio non sa niente. E insomma, l'accusa è: ma davvero nelle relazioni di Banca Italia già non si poteva prospettare qualcosa del rischio che poi è esploso? Il Fatto Quotidiano, che tre giorni fa ha portato alla luce la vicenda dei contratti Alexandria, oggi con Marco Lillo torna sulla vicenda. Regalo alla fondazione 20 milioni da Mussari. C'erano più di 20 milioni di ragioni per truccare i conti del Monte Paschi Siena nel 2009, scrive Marco Lillo. Grazie al contratto segreto con Nomura, rimasto in cassaforte 3 anni e mezzo e trovato solo il 10 ottobre 2012 e svelato dal fatto, l'ex presidente Mussari ha permesso al suo grande socio legato alla politica e al PD, la Fondazione Monte Paschi Siena, di guadagnare, tra virgolette, guadagnare, più di 20 milioni di euro tra mancato esborso e maggiore incasso di interessi sull'operazione Fresh. Fresh, sentite come suona bene come acronimo, fresco, Fresh. In realtà è una roba pazzesca, Floating Rate Equity Linked Subordinated Hybrid Preferred Securities, insomma degli strumenti finanziari che Fresh, dire Fresh, sa qualcosa di più fresco, di più... E secondo il fatto, grazie a questa operazione, sono 20 milioni che sono finiti alla Fondazione Monte Paschi Siena, controllata soprattutto dal Partito Democratico. E qui si insinua e si insedia la questione politica. Ieri Bersani ha ribadito: noi basta, noi facciamo la politica, la banca fanno le banche. Per la verità, Enrico Rossi, governatore della Toscana, oggi intervistato dall'Unità da Osvaldo Sabato a pagina 7, dice: non possiamo tirarci fuori da queste responsabilità, niente ipocrisie, bisogna dare risposte politiche ai nodi del credito. Fa un'analisi sulla questione della finanza, su questa bufera che si è abbattuta sul Monte Paschi Siena, e certo, ovviamente ci sono giornali come Libero e Il Giornale che attaccano proprio politicamente. Libero addirittura mette una foto oggi con Mussari in prima pagina abbracciato e sorridente a Giuliano Amato, a fianco a Pierluigi Bersani, a fianco a Veltroni, a fianco a Stefano Fassina, a fianco a Susanna Camusso della CGIL e insieme a Giorgio Napolitano. Vabbè, sono foto anche istituzionali, ex presidente del Monte Paschi Siena e presidente fino a pochi giorni fa dell'ABI, però insomma con queste foto, dice Libero, fanno finta di non conoscersi ora. Sotto la banca il PD crepa, titola. Tra l'altro, fondazioni bancarie saranno mica quelle fondazioni bancarie, come ricorda oggi Vittorio Feltri nell'editoriale, che non pagano l'IMU. Sono quelle, sì, sono proprio quelle, le fondazioni bancarie. E infatti Vittorio Feltri in prima pagina del Giornale scrive nell'editoriale: peggio delle banche ci sono solamente i banchieri. Molti di costoro infatti sono famosi per due motivi spesso inscindibili: hanno stipendi e liquidazioni da vertigini, di entità pari a vincite del Superenalotto, e provocano disastri mostruosi nei bilanci. Nonostante tutto, apprendiamo con sgomento che gli istituti di credito sono esentati dal pagamento dell'IMU sui propri immobili, di norma giganteschi e lussuosi. Speriamo non sia vero, infatti non lo è. Pagano l'IMU. A non pagare invece l'orrenda tassa, in realtà, sono le fondazioni bancarie, quelle che controllano di fatto le banche, ma solo qualora utilizzino gli edifici a fini sociali. Al che Vittorio Feltri, tra l'altro, fa questa domanda: quindi perché stupirsi se la Chiesa non versa l'IMU sugli oratori e gli ospizi? E poi riparte l'analisi sulle banche. Comunque, a proposito di banche, secondo Repubblica, Ettore Livini, che torna a fare questo calcolo, sentite questa cifra: le 10 maggiori banche italiane hanno sottoscritto derivati che sono adesso per Repubblica una mina pronta a esplodere nei prossimi anni per 218 miliardi di euro. Così Ettore Livini su Repubblica a pagina 4, 218 miliardi di euro di derivati a vario titolo sottoscritti dalle 10 maggiori banche italiane. Beh, le notizie politiche sono intanto un'esacerbazione dei rapporti tra Monti e Bersani, perché ancora ieri scontro aperto tra Monti e Bersani sui conti pubblici, le esodati, la CGIL. Il rapporto tra i due, almeno verbale, sembra un rapporto molto molto indurito ultimamente. Ieri Bersani ha detto: non mollo certo Sell per fare il patto con Monti. Questo è un po' il dibattito a un mese delle elezioni. Come sempre, programmi quasi zero, si parla di programmi quasi zero, sempre a parlare di possibili alleanze politiche dopo il voto. Berlusconi Berlusconi invece cosa ha detto? Ha detto: mi hanno ridotto la scorta. Il Viminale subito a smentire, semplicemente è cambiata, non essendo più premier non lo seguono più i servizi segreti ma lo seguono i carabinieri. Però insomma ha fatto questa lamentela: non posso andare nelle piazze, non posso andare a fare comizi, mi hanno ridotto la scorta, una cosa inopportuna. Ha parlato ancora, abbiamo sentito alle 6.30, della battuta sulla bronzatura di Obama. Ha detto: ma no, era una battuta, anzi io vorrei avere il colore di Obama, che è un colore che dà salute. Questo ha detto Silvio Berlusconi. Secondo Libero, eccolo qua, pronto il contratto nuovo con gli italiani, edizione 2013, far scendere la pressione fiscale dal 44 al 40% e solo due aliquote. Questo è il succo del contratto, 5 punti molto stringati che Berlusconi sta mettendo a punto, il contratto con gli italiani dopo il famoso contratto dell'8 maggio 2001. Beh, c'è da dire che questa è un po' già sentita, sembra, dal 44 al 40% e solo due aliquote, è un po' una promessa che da parte di tutti i politici sentiamo da decenni. In ogni caso, dal punto di vista del lavoro, oggi la CGIL presenterà un piano che prevede, secondo Repubblica, Valentina Conte, trovate l'articolo a pagina 7, interventi da 50 miliardi per battere la recessione. Ecco la ricetta Camusso, che lancia un messaggio ai partiti: il rigore ha fallito. La chiave è keynesiana, che la CGIL però non traduce in aiuti a pioggia banche, imprese, ricerca, ritenuti dannosi se non inutili, ma che anzi punta a coinvolgere anche i capitali privati con l'obiettivo di trasformare le arretratezze del territorio in potenzialità. Una delle chiavi, scrive Repubblica, sarà proprio questo: sfruttare le debolezze del territorio per creare risorse dal punto di vista del lavoro. Vale a dire, quindi, sui temi del dissesto idrogeologico, sul rischio sismico, il trasporto pubblico locale fatiscente, l'energia sprecata, il ciclo dei rifiuti indecente, la scolarizzazione insufficiente, l'assistenza agli anziani lacunosa, la tutela della salute compromessa. In questi ambiti, welfare incluso, l'intervento pubblico non è solo necessario ma essenziale. Questo è il punto di vista della CGIL, anche l'Unità, che dedica l'apertura su questo tema con il titolo di prima pagina "Salvare l'Italia con il lavoro", parla e scrive con due pagine, a pagina 4 e 5, a firma Massimo Franchi, l'apertura della conferenza di programma proprio della CGIL per superare la crisi. A proposito di stipendi, vi devo dire anche questa, io non so se sia vero, la leggo dal giornale, vi invito sempre a ritenere le mani attaccate sul volante: vi sveliamo la paga di Marchionne, così a pagina 11 del giornale Pierluigi Bonora. Per l'amministratore delegato Fiat il tesoro è rappresentato dai bonus in azioni, c'è tutto un calcolo complicato delle stock grant, delle stock option, di cui Marchionne e prezioso custode, ci sono calcoli di milioni, milioni, milioni per arrivare dal 2004 a oggi, ha percepito dal 2004 oltre 40 milioni di euro di stipendio. Questa è la cifra che dice il giornale a pagina 11, calcolando dunque lo stipendio proprio da manager della Fiat e lo stipendio dovesse incassare, maturare, le azioni, insomma un complicato calcolo che fa il giornale, dettagliato calcolo che fa il giornale, che arriva alla cifra di 40 milioni di stipendio dal 2004, ha percepito dal 2004 oltre 40 milioni di stipendio. Trovate invece sul Messaggero una pagina interessante che può interessare tutti i dipendenti pubblici, ma anche tutti gli italiani, perché ecco la mappa dei 7.576 esuberi, titola il Messaggero, degli statali. Firmati tra i decreti attuativi sulla spending review, ora parte la procedura che porterà 337 milioni di risparmi. Verranno interessate 76 amministrazioni centrali, di cui 9 ministeri. Tra i dicasteri più colpiti sarà l'istruzione, tra i meno colpiti la salute. E comunque tutti i dettagli anche sugli spostamenti, sui posti dirigenziali da tagliare, in totale 7.576 esuberi, come ha detto il ministro Patroni Griffi, e li trovate tutti dettagliati. La cronaca, Fabrizio Corona, sapete che Fabrizio Corona è un must di questi giorni. corona in manette, 7 ore in aula, sarà estradato, gli 7 ore in aula ieri in Portogallo, sarà estradato oggi pomeriggio, arriverà direttamente in Italia, ha fatto anche uno spot elettorale, praticamente ha detto: cari italiani, reagite adesso che ci sono le elezioni per i vostri diritti. Non ha aggiunto granché di più, in ogni caso ha ancora detto: querelo chiunque dica che ho pianto, chiunque dica che ho dato un po' segni di cedimento. Si è anche un po' lamentato in realtà, perché pare che in Portogallo, dove lui è andato perché pensava di avere un trattamento migliore, dice: non è che sono fuggito, è che ho paura delle carceri italiane. Poi si è lamentato del carcere portoghese, dove è stato tenuto a dormire in una stanza senza letto e con la finestra aperta. Quindi pare che non vada bene così. Alla decima domanda dei giornalisti si è messo così in posa, ha detto: no, basta, le interviste si pagano. È stato anche il momento clou quando una giornalista portoghese in portoghese gli ha fatto una domanda e lui ha risposto: non conosco il francese, mon amour. E vabbè, Fabrizio Corona sarà oggi pomeriggio in Italia. Manca un minuto, vi segnalo questa notizia di interessante per molti papà, molte mamme, molte famiglie. Un papà su 10 in Gran Bretagna ormai decide di stare a casa con i figli. Francesco Piccolo ne parla a pagina 29 del Corriere della Sera. In Inghilterra si chiamano gli stay at home dad, cioè il papà che se ne sta a casa, accudiscono i loro bimbi. Noi forse abbiamo una mentalità ancora un po' da quella del maschio italiano che deve portare a casa la pagnotta, e quindi un po' da vincere, però in Inghilterra questo fenomeno sta emergendo sempre più. Trovate una pagina sul Corriere della Sera, pagina 29. Vabbè, chiudo con il Gene Gnocchi, da tanto tempo non lo leggo, ma oggi sulla Gazzetta dello Sport è straordinario, in prima pagina: rompipallone, brutto episodio alla Coppa d'Africa, durante Congo Niger la curva ha urlato a un giocatore: Borghezio. "24 mattino, l'Italia si desta." Eccoci, siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, con noi per parlare dell'attualità politica a Monte Paschi Siena, ma non solo, c'è uno dei candidati, il capolista al Senato per la precisione della lista di Monti, vale a dire con Monti per l'Italia, e si tratta di Mario Sechi, che saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Sechi. Dopo una lunga carriera giornalistica, anche se so che è una pausa quella della politica che lei vuole concedersi, o no? Dovrebbe essere sempre una pausa per tutti. Una pausa per quando tutti. Quando le carriere politiche diventano eterne, poi significa o che non hai più un mestiere, o che non l'hai mai avuto, e non va bene. Allora, senta, capolista in Sardegna al Senato, la vicenda Montepaschi è su tutti i giornali, è un caso anche politico. Le faccio la domanda che molti giornali si pongono: ci sono anche responsabilità del Partito Democratico, secondo lei, oppure, come dice Bersani, noi siamo un partito e le banche sono le banche? Beh, loro sono un partito che però, insomma, col Monte dei Paschi di Siena non è che non ha niente a che fare, per ragioni oggettive. La governance di quella banca, della fondazione, eccetera, è strettamente legata al Partito Democratico, lo sanno tutti, non solo ovviamente, ma la storia insegna che con quella banca la sinistra italiana ha fatto molte operazioni, tutte legittime, per carità, niente da dire, però insomma mi pare come il bambino che viene preso col cucchiaio dentro la marmellata e alla mamma dice che è il fratellino. Non c'è problema. Secondo me non lo devono negare, punto. Beh, ma loro non negano il fatto che la fondazione sia nominata nelle persone dalla politica, però dicono non i dirigenti. Secondo me non è il caso di farlo, perché gli elettori, i cittadini sono attenti a questo. Quindi quando Bersani dice: certo c'è preoccupazione per quella che è la situazione di Montepaschi, ma nessun imbarazzo, lei condivide o dovrebbe essere imbarazzato? Io sarei imbarazzato, francamente, perché la situazione della banca, che è in difficoltà da molto tempo, da anni, molti anni, era nota a tutti, ancor più nota al PD. Parliamoci chiaro, cioè, per perché chi poi ha le relazioni con la più strette con la governance direi che naturalmente è più informato, no? O dovrebbe esserlo. Quindi insomma, è fonte di imbarazzo politico. È fonte di imbarazzo. È fonte di imbarazzo. Certo, però il... lo dico con molta serenità, perché poi a me la speculazione politica non piace. Io sono per la soluzione dei problemi, come sempre. C'è un problema, va risolto. Va risolto. Il problema è che c'è la terza banca italiana che ha delle difficoltà e va tirata fuori da queste difficoltà. Ecco. Ma non per i banchieri, come dice qualche demagogo, da quattro soldi, secondo me, ma per i correntisti, per i risparmiatori, certo, per il debito pubblico italiano che è in pancia a Montepaschi e non solo. Chi è responsabile deve dire queste cose. Tra l'altro, una persona che però viene associata spesso ai poteri delle banche è proprio il premier Mario Monti, per il quale lei corre, diciamo, nella lista. Si dice, si è sempre detto, Monti è l'uomo delle banche. Monti invece dovrebbe avere una qualche forma di imbarazzo da presidente del Consiglio per questa vicenda. No, perché Monti ha fatto tutto quello che andava fatto per tutelare il risparmio degli italiani e dei correntisti e per dare stabilità al sistema. Ma voi provate a immaginare uno scenario in cui, non accadrà mai per fortuna, ma provate a immaginare uno scenario in cui MPS sprofonda. Cioè, avete idea di che cosa succede, dell'effetto domino che innescherebbe uno scenario del genere su tutto il sistema finanziario del paese? Quindi che bisogna fare? Salvare una banca? Le banche? Bisogna traghettare la banca fuori da questa situazione, dargli un nuovo assetto, vedere cosa decidono adesso gli azionisti, anche perché il prestito non è stato ancora per niente erogato, perché devono crearsi delle condizioni, come sapete tutti. Quindi ecco, appunto, il prestito che è stato dato è un prestito giusto? Già, sa che molti... è un prestito che si realizza al determinarsi di alcune condizioni, mi seguite? Cioè, quando tu vai a dare un prestito a una famiglia o a un'impresa, deve avere condizioni di solvibilità, garanzie, deve fare alcuni passi, eccetera. Quindi questo si eroga se si realizzano le condizioni previste, condizioni di stabilità, di certezza e così via. E sono tutti elementi che servono a stabilizzare una situazione che stabile non è. Però quando dice Monti ha fatto di tutto per garantire i correntisti, io sono sicuro che molti italiani che hanno pagato l'IMU più tasse eccetera avranno fatto un sobbalzo sulla sedia o sulla macchina mentre lo farebbero ascoltando. Ancora di più se salta il terzo gruppo bancario italiano, perché a quel punto salta la stabilità di tutto il sistema finanziario. Cioè, se non si capisce che questa cosa è nitroglicerina, allora non si comprende neanche lo scenario in cui è incastonata tutta la vicenda. Però Monti ha per detto, fare speculazione politica su questa cosa è molto facile. Risolvere i problemi creati è più difficile. Da altri è più difficile. Per esempio, non solo è più difficile, ma nonostante sia difficile, va fatto. Questo è il punto fondamentale. Ecco, per esempio, Monti che dice siamo pronti a parlarne in Parlamento. Secondo lei cosa dovrebbe dire? Il Presidente del Consiglio va in Parlamento e dice che cosa? Che il governo, di cui lui è il massimo esponente, ha come bussola la tutela del risparmio degli italiani. La vigilanza è affidata alla Banca d'Italia, gli organi della banca devono essere nella loro azione improntati alla massima trasparenza e che l'azione della magistratura ovviamente va supportata, perché occorre fare chiarezza su tutto. E intanto però intanto l'eventuale buco creato chi se lo accolla? Sempre noi, perché dobbiamo sostenere. Ci saranno delle azioni di responsabilità, immagino, nei confronti di chi ha amministrato la banca. Se come io faccio un debito e poi non lo pago, che succede? Però è la storia dell'Italia. Gli azionisti di Parmalat, quelli che hanno investito nei bond argentini, aspettano ancora dei soldi. Sì, assolutamente vero. No, Tanzi è stato condannato alla fine. Sì. Poi si può discutere i soldi, però sui soldi, cioè, i soldi di chi li ha persi, che tipi di contratti sono stati sottoscritti. Ricordiamoci una cosa, perché qua ci sono una doppia veste, no? Cioè, il risparmiatore è quello piccolo che dice ma io ci ho perso, non ci sono dubbi, ce ne sono tantissimi, ne conosco tanti personalmente che in buona fede hanno investito. Poi c'è il risparmiatore che, pur sapendo di investire in strumenti finanziari ad alto rischio, lo ha fatto lo stesso. Perché? Perché vuol guadagnare tanto. E lì si accolla questo rischio. Chi ci ascolta, molti di quelli che ci ascoltano non sono professionisti, lo sanno, ha un alto rischio, corrisponde un altro guadagno, ma non è che l'altro rischio, quando c'è l'altro guadagno, tu lo elimini. Non è chiaro. Cioè, rischi e quindi rischi anche di perdere. A sua volta, e tant'è che guardate cosa è successo, che la banca ha sbagliato gli investimenti, quindi ha rischiato anch'essa. Perché? Perché siccome aveva poste negative da altre parti, volendo colmarle, ha fatto operazioni in, diciamo così, chiamiamoli derivati per modo di dire, sì, perché sono strumenti un po' vari, azzardate. Esatto, molto rischiose, ma se ti va male non copri il buco, lo allarghi, che è quello che è successo. Con i soldi della gente però. Cioè, la finanza è micidiale. Puoi guadagnare tantissimo e perdere. Secchi, c'è la questione dei giornalisti in politica. Lei ha seguito Mentana che ha criticato, a dire, sì, ma come? Se uno scende in politica o sale in politica, allora cosa gli si può dire riguardo a tutto quello che ha fatto come carriera giornalistica? Che era di parte? Che non era, no, che era schierato? Ma insomma, che io sia un liberale lo sanno tutti, quindi non è che questo sia una cosa particolarmente sorprendente. Ha difeso più Berlusconi negli ultimi anni, Cosa? Ha difeso più Berlusconi magari negli ultimi anni, invece poi... Ah, sì, certamente, cioè, diciamoci le cose come stanno. Chi era liberale negli ultimi 15 anni aveva una sola scelta, stare nel centro-destra, no? Come area culturale intendo, seguitemi, perché poi insomma l'area politica ci sarebbe molto da dire, e infatti abbiamo scritto parecchio sul tema, ma diciamo dovevi stare da quella parte là, perché dall'altra chi c'è, cioè, al centro-sinistra, insomma, possiamo valutare insieme che cosa era. Di certo non si potevi stare con quel settarismo che ancora oggi rimane. Non c'era alternativa politica sullo scaffale del supermercato della politica. Qualsiasi italiano non fosse di sinistra doveva stare là. È la storia di ben più della metà del paese, diciamo, che ha fatto questa scelta. Poi improvvisamente, non tanto improvvisamente, visto che credo di aver dato un certo contributo alla cosa, Monti ha deciso di creare un'alternativa per i liberali, per i conservatori, chiamateli come volete, sì, comunque per quelli che sono Monti di sinistra e hanno un'estrazione culturale, una storia di diverso tipo, allora... In che senso ha dato una mano? Cioè, ha convinto Monti a salire in politica? Lo sanno tutti che io sono stato uno di quelli che ha sostenuto che Monti doveva fare la lista e così. Adesso lo segue anche dal punto di vista della comunicazione. L'ultima domanda è proprio questa: ma è vero che è stato ingaggiato come consulente il guru di Obama, Axelrod? Abbiamo come consulenti di una società americana che è Axelrod, sì. Quindi insomma, Monti come Obama, cioè proprio la strategia comunicativa di Obama. Ma non è che Monti come Obama. Come strategia, sono cose diverse. Obama ha un carattere, Monti ne ha un altro. Di certo c'è un piano, no? Una strategia che il piano di comunicazione corrisponde esattamente al piano che abbiamo per governare il paese, e cerchiamo di comunicarlo ai nostri potenziali elettori nel miglior modo possibile. È una campagna elettorale molto breve, sì, molto, molto dura, piena di imprevisti, con un'evaporazione degli eventi molto rapida, cioè quello che è successo ieri dopo tre giorni si è già dimenticato, e ha pochi effetti. Vi faccio un esempio, non so, il Santoro con Berlusconi, certo, che ha fatto un picco di ascoltatori in televisione e poi sul fronte dei voti ha reso pochissimo, quasi niente. Vabbè, insomma, è già dimenticato. Comunque insomma c'è il guru di Obama, questo è interessante, già. Vi appoggiate anche come consulenza a una società americana che fa capo a questo David Axelrod, il guru dal punto di vista della comunicazione di Obama. La devo salutare, mi devo fermare. Mario Secchi, grazie per essere stato con Ciao. Noi ovviamente, grazie, capolista al Senato con Monti per l'Italia, e noi ci fermiamo. Tra 5 minuti avremo ospite il governatore della Liguria Burlando, per parlare della questione delle spese dei consiglieri liguri, tra poco. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, presentano Non bevetevele tutte. Più si invecchia e meno si beve. Vero, il centro della sete è meno sensibile. Birra e vino fanno latte. Falso. A produrlo ci pensano gli ormoni. Uliveto, Rocchetta e i medici di famiglia FIMG hanno presentato Non bevetevele tutte. Bevete Uliveto perché aiuta a digerire e Rocchetta perché stimola la diuresi e ti depura. Uliveto e Rocchetta per la salute della famiglia. Non posso presentarmi dai miei clienti con questo PC. Io ho comprato il notebook convertibile Dell XPS 12. Mi hanno rimborsato 150 euro permutando il mio vecchio PC non Dell. 150 euro? E dove? Vai su Dell.it, chiedi al tuo rivenditore di fiducia. Scegli un nuovo Dell con Microsoft Windows 8 e dando in permuta il tuo vecchio PC ottieni un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Microsoft Windows 8. Elegante, semplice e veloce. Nuovo allestimento bicolore. Nuovi interni sportivi. Nuove finiture con trattamento in titanio. Io sono Giulietta Veloce, mettimi alla prova o prova a resistermi. Nuova Alfa Romeo Giulietta Veloce. Scoprila sabato 26 e domenica 27. Da oggi Giulietta da 189 euro al mese con Liberamente Alfa. E dopo 3 anni scegli se tenerla, cambiarla o restituirla. Offerta valida fino al 31 gennaio. TAEG 762. Salvo approvazione Sava. Info e condizioni su sava.it. A tutti gli ascoltatori, stiamo cercando un veicolo commerciale. È stato avvistato ieri a Milano, ma prima era stato a Napoli, a Londra, in Turchia, Russia, Germania. Se non vuoi trovarti in questa situazione, scegli Visiran e sai sempre in tempo reale dove sono e cosa fanno i tuoi mezzi. Controlli i consumi di carburante e comunichi con i tuoi autisti in tutto il mondo. Provalo subito gratis sul sito visiran.it. Visiran, se non vedi non sai, se non provi non capisci. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. In queste ore l'inverno sta nuovamente alzando i toni perché il vortice di bassa pressione che insiste sulle nostre regioni meridionali porterà delle correnti di aria gelida di origine artica sulla nostra penisola e quindi farà freddo, decisamente freddo, sia oggi che nei prossimi giorni, anche se in realtà il tempo è in fase di miglioramento. Quindi oggi prevalenza di tempo bello al nord e nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello in Toscana e Lazio. E poi piogge sparse su regioni centrali adriatiche, quasi tutto il sud della Sardegna, con nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico dell'Appennino centrale, oltre 600-800 metri sui rilievi del sud, e le temperature caleranno un po' dappertutto. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto. Hai mai pensato ad una filiale della tua azienda negli Stati Uniti? È da molti anni in Italia Global Export Network, la prima società americana che mette a disposizione negli Stati Uniti un esperto di settore per accompagnarti nello sviluppo della tua filiale. Analisi di mercato, assistenza legale, gestione del personale e supervisione logistica sono altri servizi che Global Export Network offre ai propri clienti. Global Export Network, la tua azienda negli Stati Uniti. Subito. www.filialeusa.it. Uno monocromatico, uno a colori, uno per digitalizzare i documenti, uno per il workflow aziendale. Signorina, dai numeri? No, direttore, sto scegliendo tra gli 11 modelli della nuova gamma di multifunzione Kyocera. Task Alpha 3050C e Task Alpha 4500i. 11? E quanto mi costano? Non li deve prendere tutti. Ce n'è uno per ogni esigenza. Sono affidabili, ecologici e con il timer settimanale. Ma allora Kyocera conviene. Ci può contare. Kyocera, count on us. Trovi i rivenditori Kyocera su kyoceradocumentsolutions.it. Kyocera Document Solutions Corporation. La musica è rivelazione. Il Sole 24 Ore e Famiglia Cristiana presentano Classica Divina, i più grandi e celebrati capolavori della musica sacra. Una raffinata collana in 20 CD book per i collezionisti più esigenti. In edicola, il Requiem di Mozart. Certo che se il mister schierava un 4-4-2 non rischiavamo quel gol. Anzi, un 4-5-1 con quel libero che abbiamo. Ma no, era preferibile un 4-2-4 o un 4-3-3. Non c'è miglior difesa dell'attacco. Esci dagli schemi. Acquista la tua nuova auto con il finanziamento misura Start and Go in tutte le filiali del gruppo Banca Garige. Entra in banca, esci in auto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso le filiali del gruppo Garige, salvo approvazione di crediti e servizi finanziari. Per info chiama l'800 010909. 24 mattino. Siamo qua, allora, alle 8.35 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta per qualche minuto, per parlare con noi. C'è il governatore della Liguria, Claudio Burlando, che saluto. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Allora, perché da 3 giorni leggiamo delle cose sulle spese di alcuni consiglieri regionali, per carità, magari sono spese anche minime come cifre, mutandine, cibo per gatti, 11 euro in bottoni, addirittura abbiamo scoperto oggi dal Secolo XIX. decimonono, per le quali vogliamo chiedere qualche spiegazione. Lei ha detto: chi ha sbagliato pagherà. Però perché viene sempre questo controllo postumo, Presidente? Davvero non si riesce a frenare prima questi... No, ma il controllo, dunque, volevo spiegare bene come funziona da noi. Prima cosa, noi non abbiamo aumentato in questi ultimi anni i fondi del Consiglio, ma li abbiamo diminuiti in modo drastico. L'abbiamo diminuito in modo drastico di 6 milioni di euro nel suo complesso, e in modo particolare poi questi spese di funzionamento sono diminuite in modo significativo, perché è chiaro che le spese per il personale del Consiglio poi rimangono sostanzialmente invariate. Seconda cosa, noi non accettiamo, noi, voglio dire, dico noi, ma in realtà, come lei sa, il Consiglio regionale, perché sì. Sono due enti completamente distinti, Giunta e Consiglio, anche se poi l'immagine, come dire, colpisce probabilmente mentre il Presidente della Giunta, che ha tutt'altre regole per le sue spese interne, ma comunque mi sono ovviamente reso disponibile immediatamente alla vostra richiesta. Noi non autorizziamo autocertificazioni. Sì. Cioè in alcune regioni un consigliere può dire: io ho speso 1000 euro per attività politica. Senza dire perché. Senza dire perché. Invece da noi uno deve presentare, come dire, tutte e solo ricevute. Sì. Ma evidentemente il sistema ha qualche falla. Perché... Il terzo punto è questo, che il 31 gennaio, l'anno successivo, quindi praticamente in questi giorni, i gruppi devono presentare queste certificazioni al Consiglio, il quale poi le esamina e le guarda una a una. Mm. Questo è il punto. Quindi non solo non c'è l'autocertificazione, però il Consiglio, c'è anche un controllo. Però il controllo è il Consiglio. Cioè... controllo e controllate e controllore sono ex post, no? Sì. Perché prima uno fa la spesa, poi no, questo sì, però Presidente, il controllato e il controllore sono, cioè chi controlla è un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio. Ieri, dopo queste vicende qua, il Presidente del Consiglio ha riunito, diciamo, l'ufficio di Presidenza e ha stabilito, anche visto quello che è successo, che a controllare queste spese non sia più, diciamo, solamente il Consiglio, ma sia il revisore dei conti, cioè un organismo tecnico. Però Presidente, lei come si spiega queste cose? Foulard, cravatte, pizzerie, la cosa che mi spiego poco, terme, perché premesso che sono venute fuori alcune cose che sono scalpore, che invece sono assolutamente giustificabili, come dire, la spesa per il viaggio in Polonia è il pellegrinaggio ad Auschwitz, sì. Come dire, bisogna restituire anche l'onore a chi non l'ha perduto, no? Mm. Cioè è evidente che se uno va, accompagna una stazione deportata ad Auschwitz, non è un viaggio di piacere. Questo certo. Che cosa però le ha fatto scalpore, no, leggendo? Mi ha fatto impressione l'idea, ora, a meno che non siate gli eroi, adesso poi si capirà, cioè, che uno che deve, come dire, rendicontare con delle ricevute, e che sa che queste ricevute vengono viste, quantomeno prima di questa decisione di ieri, dei suoi colleghi, sì. Ripeto, a meno che non siete di eroi, possa presentare, diciamo, a rendiconto cose che sono... Cravatte, è questa la questione, perché c'è il senso dell'impunità della politica, Presidente, cioè come dire... Non lo so, diciamo, quello che a me interessa adesso è chiaro, è questo. Uno che... tutti quelli che sono comprati regolarmente gli venga riconosciuto, perché appunto poi un consigliere da me, come dire, incaricato, si è recato a Limone per discutere con quel comune, gli recupero di una strada militare, Sergio Scibiglia, sì, detto... da Limone, è una casa di 40 km militare che noi stiamo recuperando, poi si è venuto da me, siccome Limone è un luogo di vacanza, tutti hanno subito pensato, no? È andato a sciare. Oggi c'è la conferenza di servizio, proviamo quel progetto e recuperiamo una storia che non è un valore turistico. Mm. Allora, quello che mi dà più addosso, ancora più, diciamo, della vicenda in sé, è che a questo punto questa vicenda possa proiettare una luce negativa su persone che sono comprate con assoluta correttezza. Sì. La seconda cosa, poi, è che invece venga detto con estrema chiarezza, così che ha fatto una cosa del genere, che a me appare, diciamo, abbastanza incomprensibile, avendo noi, come dire, messo la regola che tu devi, come dire, portare gli scontrini, no? Sì. Perché in una regione in cui, come dire, non è necessario portare gli scontrini. Uno può fare tutto. Ma non sarebbe più facile? Intanto, Presidente, mi lasci salutare anche un collega che è per Francesco De Robertis, forse lo conosce, ha scritto anche un libro, La casta invisibile delle regioni. La casta invisibile delle regioni, che insomma va a fare le pulci un po' su tutte le varie regioni. Presidente, non sarebbe più facile dire ci sono gli stipendi dei consiglieri, che sono anche alti. Mettiamo i rimborsi consigliari, a meno che a stretto proprio il viaggio ad Auschwitz è giusto che va rimborsato, se no a zero, cioè zero, nessuna possibilità di fare cravatte, foulard. Noi abbiamo fatto una nuova legge, anche cogliendo la se poi le racconto anche come ci comportiamo come giunta, che addirittura credo che sia una cosa anche un po' esagerata. Le racconto un episodio per dire lo scrupolo che almeno noi abbiamo. Quando io fui rieletto e venni proclamato presidente, in quel momento cadde la giunta, no? E per un mesetto rimarrò un organo monocratico, che il presidente, e poi si farà una nuova giunta. In quel giorno, io il giorno precedente, avevo chiesto all'assessore all'agricoltura di andare a Vinitaly, a Verona, sì, perché questa è una rassegna molto importante, noi cominciamo ad avere qualche produttore anche discreto, eccetera. Gli uffici della giunta lo hanno informato che, essendo decaduto, lui non poteva ritornare con l'auto di servizio, ma doveva ritornare su con l'auto, col treno. Ecco, lei capisce che in una realtà in cui almeno ciò che riguarda la giunta noi lo trattiamo in questo modo qua. Cioè lei sta dicendo addirittura che ci sono comportamenti che vincolanti, ripeto, in senso negativo. Io dico, l'ho considerato da parte degli uffici una cosa un po' al limite, no? Quasi un po' una scortesia, no? Non so come dire. Però l'ha fatto. Però mi perdoni, Presidente, qui De Robertis, qua la questione cos'è? Che i cittadini leggono di mutandine, cibo per gatto, cravatte. Io penso che tutto il buono che si è anche fatto in questi anni non basta. Con queste vicende non sia in buona parte andato via, sono totalmente andato via. Allora, ancorché, ripeto, si tratti di bilanci che i gruppi devono ancora consegnare, sì, lo devono fare il 31 gennaio. Che naturalmente, come dire, andranno controllati. Ma mi faccia fare, Presidente, per Francesco De Roberti, se vuoi fare una domanda, Presidente Burlando, sull'ultima vicenda che leggiamo sui giornali, soprattutto al secolo XIX. Ma no, io mi chiedo questo, poi lo chiedo anche al Presidente. La vita delle regioni probabilmente si divide in un ante prima di Fiorito e dopo Fiorito, no? Perché lo scandalo Fiorito ha fatto emergere tutta una serie di problemi, tant'è che poi il governo è intervenuto, eccetera. Ma mi chiedo, ma è possibile che la politica debba sempre venire a rimorchio in qualche modo della cronaca, degli scandali, delle procure? Non c'è mai una volta in cui si dice la politica, ma di tutta, di centro, di destra, di sinistra, al nord, non per fare come dire qualunquisti, tutti sono uguali, però poi alla fine più grande vedere, però si interviene sempre dopo le procure, cioè anche qui la Guardia di Finanza è intervenuta, Presidente Burlando. Guardi, questo è il più grande rammarico mio, siccome sono uno che lavora una quantità di ore infinite e credo di applicare a me stesso e alle persone, come dire, su cui io posso avere un esercizio di controllo, di indirizzo, delle regole molto precise, ho cercato di dire in tutti questi anni, almeno come dire, in realtà in cui io ho un compito diretto, che bisogna dare delle idee molto netti. Noi siamo una giunta che per esempio ha abolito quei pacchi di giornali che si vedevano, no? In tutti gli atti, i giornali, diciamo, vanno comprati. L'unica cosa che ci tiene in vita, compra, Presidente, no? Che era una battuta. Noi abbiamo la rassegna e poi uno se li compra. Sì, però Presidente, lei ha già letto Il Secolo Oggi, guardi, non so, Rosario Monteleone, Presidente del Consiglio, dice il vasellame, ma no, è stato un errore, i 11 euro di bottoni, ma no, la segretaria ha sbagliato, le cravatte, so, il foulard. Io ho molto diciamo incoraggiato il Presidente del Consiglio in un incontro che ho fatto ieri ad avere un soggetto anche esterno di verifica. Si era parlato di Corte dei Conti, Presidente. La Corte dei Conti cosa ne pensa? La Corte dei Conti a me andrebbe benissimo. Guardi, io sono stato commissario in varie vicende alluvionali, ho avuto controllo preventivo della Corte dei Conti, mi ha dato una mano enorme. Quindi tutto ciò che riguarda controllo della Corte dei Conti, perché se posso fare una considerazione politica, il paese è messo male, non credo che ne uscirà solamente con, come dire, iniziative di tipo imprenditoriale. Questo è un paese debole, sì, anche dal punto di vista dell'impresa, perché anche lì abbiamo avuto fenomeni drammatici, no? Pensato alla Parma, alla Ciria, ha pensato a Monte Paschi, insomma. Anche lì purtroppo è un paese in cui il tasso di moralità si mostra basso, non solo nel mondo politico. Ora, siccome credo che per un rilancio del paese la credibilità della politica sia un valore che ha un qualche peso, sì, tutto ciò che si può fare per introdurre controlli, verifiche, si deve fare. Si deve fare. Allora, De Robertis, fai un'ultima domanda al presidente Burlando, che ci deve lasciare prima l'informazione del traffico, poi approfondiremo con te, Pierfrancesco, la questione, insomma, delle varie regioni, anche che fine ha fatto la vicenda del Lazio, Pierfrancesco. No, presidente, volevo capire una cosa. I consigli sono un po' sotto la lente di ingrandimento della stampa, in particolare, perché sono anche forse più facili da guardare dentro, però spesso a chi vuole guardare dentro le spese delle giunte sono un pochino più difficili da guardare, spesso non c'è lo stesso livello di trasparenza, perché sia nei siti sia... Dice di no? Presidente Burlando. Le spese della giunta sono nel bilancio preventivo e nel bilancio consuntivo. Sì, ma i bilanci sono le cose più cryptic, le cose più difficili da vedere, le cose più facili in cui si imboccano. Prendiamo le cose. Prendiamo lei, che è una persona che, come dire, ha avuto la curiosità. Io mi metto a disposizione, se lei vuol venire viene, se lei vuol chiedere documenti li chiede. Mi metto a disposizione, le posso solo dire, per dare un dato, diciamo, complessivo, che quando si è avviata con il decreto 78 di Termoggi un'operazione stretta sui conti, e non sui soldi buttati via, questa regione qui ha messo 12 milioni di euro per avere l'IT a Genova, che ha sotto 700 persone, non è che tutti li buttiamo via, insomma. No, ma per carità, no, tutti questi. Le volevo solo dire che da un anno all'altro noi abbiamo aderito a questa richiesta del governo, diminuendo i costi della regione, non gli sprechi, i costi. Il 30%, quindi ci sono anche regioni che provano, diciamo, a dare una mano al paese, a uscire da questo. Però lei dice lo prendiamo come spunto, di quello che si può fare. Mi metto a disposizione. Di più si può fare. Intanto vostra sui bilanci, per venire a vedere, per tutto ciò che volete venire a vedere, tutti i documenti che volete avere a noi disposizione. Le giunte, le vuol dire l'ultima cosa: noi venerdì facciamo la giunta. Noi da un anno le facciamo in streaming, cioè l'unica regione d'Italia, forse l'unico ente pubblico, diciamo, che tiene le riunioni dell'esecutivo, non dell'assemblea, in streaming. Cioè ognuno le può seguire online, diciamo. Va bene, presidente, io devo dare le informazioni sul traffico, la ringrazio per essere stato con noi, Claudio Burlando, presidente della regione Liguria. Tra poco con Pierfrancesco De Robertis e qualche ascoltatore, se volete, insomma, avete considerazioni, approfondiremo anche con gli articoli del secolo XIX, che io dico su Twitter ci fanno stare con mani sul volante ben strette per un po' di rabbia, tra un attimo. Allora, i bilanci delle regioni, con noi rimane Pierfrancesco De Robertis del Quotidiano Nazionale, autore, ripeto, di questo libro La casta invisibile delle regioni. Con noi c'è stato il presidente della Liguria Burlando. Pierfrancesco, sentiamo qualche ascoltatore. Mario da Udine, buongiorno Mario, che ne pensa? Buongiorno. Io volevo solo dire, io sono un artigiano e io la mia vettura, che la uso per andare a lavorare ogni giorno, e sono sicuro di andare a lavorare ogni giorno, non posso usare il rimborso chilometrico. Questa gente qua invece fa il rimborso chilometrico di altre residenze, per la residenza più lontana, per avere il rimborso chilometrico sulla vettura. Ma privata. Sa, Mario c'è da dire, e poi per Francesco risponderà meglio, quello almeno è tutto legittimo nel senso, in base alla legge, ma quello che invece emerge, non so, per Francesco, oltre a tutto ciò che già il salasso che la politica prende da noi, poi emergono queste cose: foulard, cibi per gatti, mutandine, o no, Pierfrancesco? Cioè, fosse solo il rimborso chilometrico, che già per qualcuno è uno scandalo, e lo è forse, ma poi c'è tutto il resto. Quello che colpisce è il senso di impunità, no? Perché chi mette lì un cibo per gatti e mette una ricevuta o uno scontrino di cibo per gatti denota più che una disonestà, perché poi le cose vere e disoneste si fanno senza ricevute e senza scontrini fiscali, è il senso di impunità, cioè non mi controllano e allora faccio come voglio. È straordinario il presidente del consiglio regionale, anzi il vicepresidente della giunta Scialfa, che ha detto 2 giorni fa, ma a un tempo certe cose erano considerate legittime e opportune, adesso vedo che sono considerate inopportune. Ma come inopportune? Ma una cravatta per fare un regalo di Natale, ma se la comprasse, cioè che male c'è, la comprasse senza metterla a rimborso e facesse tutti i regali di Natale che crede, come tutti i cittadini, come tutti noi. Umberto dalla provincia di Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Umberto, sono il fondatore di un movimento di protesta che si chiama NVPP, non vogliamo pagare più. No? Non vogliamo pagare più che cosa? Che cosa? In generale, per queste persone che adulte, maggiorenni, con il padre di famiglia, che dovrebbero avere il senso del rispetto dei soldi e degli altri, degli altri sarebbero cittadini normali come me, come noi. E invece si tratta di mettere addirittura un organo ancora esterno per controllare quello che fanno, ma non dovrebbero neanche permettersi di pensare di toccare i soldi per uso privato. Invece, è assurdo, solo questo è assurdo. Invece è così. E invece è così, Umberto. Ma che non, mi dica una cosa: non vogliamo pagare più. Cos'è sto movimento? A ottobre contro la soppressione di Equitalia, contro il sistema nazionale di questi. Diciamo prelievi non autorizzati e illimitati, no? Non vogliamo pagare più, non vogliamo pagare più. È una maglietta che figurativa, qui c'è l'Italia tagliata in due dalla ghigliottina. Ma si candidi anche lei, Umberto? Non voglio politici nel mio movimento, voglio solo persone che siano disposte a lottare per non vogliamo pagare più, com'è? NVVP. NVPP, Pier Francesco, questo è il nuovo movimento. La fantasia. NVPP, non vogliamo pagare più. Arnaldo da Roma, buongiorno Arnaldo. Sì, buongiorno, due piccole pillole. I rimborsi sono di per sé vergognosi, sono d'accordo con lei, andrebbero semplicemente aboliti, così non perdiamo tempo, controlli esterni, Corte dei Conti, infatti. È assurdo. E in più sono ancora più assurdi perché poi è una classe politica, se la vogliamo ancora chiamare così, che tra l'altro lavora male oppure non lavora proprio. Due piccoli spunti: Regione Lazio, non sanno ancora dove mettere i nostri rifiuti, addirittura li mandano fuori all'estero a nostre spese, e quindi non sanno gestire nemmeno politicamente. Cioè, dice, almeno la politica risolve il problema. Ci sta bene anche un rimborso, ma dato che nemmeno lavorano, è tutto ancora più assurdo. Cioè, no, ma questo infatti politico è anche quello ingiustificato. Infatti, altro punto, polveri sottili, proprio recentemente hanno dimostrato scientificamente di come ci uccide l'inquinamento. Nessuno ne parla. Cioè, no, ma chiaro, Arnaldo, guardi, perché sono di corsa, devo chiudere. Vorrei un'ultima considerazione da Pierfrancesco De Roberti. Se è poi questo il senso di molti cittadini, cioè la politica poi non dà risposte. Quindi, non dando risposte, uno dice: perché devo pure dargli rimborsi, Pierfrancesco? Sì, io spero che la classe politica si renda conto, anche quella locale, dell'enorme danno che crea al sistema democratico anche uno scontrino di 10 euro per un cibo per gatti, perché va proprio a minare il rapporto di fiducia che esiste in tutte le democrazie tra il cittadino e la politica, che poi è quello che deve pensare al nostro oggi, al nostro domani. Infatti, quindi questi loro non si rendono conto di questo. Sì, non si rendono conto. È un danno enorme. È questa la cosa più incredibile. Il movimento non voglio pagare più, nel senso che... Che però non si candida. Non voglio pagare più. Mi devo fermare, Pierfrancesco, ti ringrazio. Pierfrancesco De Roberti, se lo ricordo, la casta invisibile delle regioni, Rubettino Editore, se lo volete comprare. Io devo fare un saluto in chiusura. Voglio salutare Germano Marcuzzi, classe 1939, pensionato. Io so che mi ascolta tutti i giorni, ma lui non sa come faccio a saperlo. Ma gli mando un grosso abbraccio, gli mandiamo tutto un grosso abbraccio da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, la redazione tutta e Peter Bescapè in regia e Alpino Peter Bescapè. Quindi un abbraccio a tutti a Germano Marcuzzi. E sì, con gli alpini vi lasciamo, ci troviamo lunedì, seguiteci su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 Mattino, la trasmissione, a lunedì.